Ed essere cosciente? Sì. Vuole essere consapevole della realtà che la circonda? Sì. E se la sente di affrontare il mondo così come la si presenta, senza palliativi? Sì. E allora prenda questa... pillola rossa. Pillola rossa. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci e a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Siamo capiti? Oh no. Sesta puntata? Sesta puntata di Pillola Rossa. Sesta puntata che con la scusante che l'altra volta avevamo dato praticamente che partevamo un po' dopo, quindi... ha detto che partivamo prima e si è riusciti a partire dopo ancora di prima. Quindi, cioè, la costante del ritardo c'è, però vabbè, è giustificata dall'avviso prima. Cioè, millantiamo di iniziare giusti e arriviamo pessimi. Ancora più in ritardo. Siamo sempre, sempre pessimi. Cattivi soggetti. Invece andiamo in un'epoca diversa in cui cattivi soggetti era tutto al di là da venire e c'era un'altra atmosfera nell'aria, un po' più crudité. Crudité. Non vorrei dire commerciale perché all'epoca andava per radio, adesso mi sembra che in radio queste cose più non... No, non penso ci vada, anche se è famoso, insomma. È famoso, era una roba da radio ma non la mettiamo perché molto era famosa radio. All'epoca. Era sì, molto, molto famosa. Aveva un succo. Poi niente, per arrangiarsi ai concerti si è unito, hanno fatto tre persone in una. Ah poi, sì? Sì, sì? Tre in uno mi mancava. Sì, sì, sì. Vabbè, ci sono messi insieme. Come fanno i gruppi metal adesso? Ah. Vabbè, primo pezzo. Vai, prego. Molto famoso, lo indovinerete, non lo presentiamo. Sulla faccia sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Chico prova al sole di scaldarsi il cucchiaino. Spillo sta rubando un altro motorino. Il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. I materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, cazzi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Chico è a casa con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe, andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi con pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. La felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo. Prendi il motorino e in un minuto sono lì. Sono questi soldi e com'è stato facile rubarli. Finalmente ci possiamo comprare quello che ci pare. Spiegami perché non parli. Lascia stare, stampo zitto, non ho voglia di parlare. Manca poco, abbiamo finito, andiamo via. Scappa presto, non fermarti, corri cazzo, non voltarti. La sirena è quella della polizia. Saltano come due gatti sulla sella, schizzano tutta manetta, figli di puttana, non ci prenderete mai. Guarda che casino, guarda dove vai a finire, ho anche freddo e ho paura di morire. Stai attento, frena, ciao. Hai provato la nuova offerta Pago Tutto, la nuova carta prepagata Mastercam di InfoView? Con Pago Tutto da oggi paghi subito tutto senza sconti e con Pago Tutto puoi pagare anche quello che fino a ieri era gratis. E con la nuova formula Pago Doppio puoi scegliere di pagare due volte la stessa cosa con solo un euro di costo in più per la prenotazione. Di entrare nell'hardcore qua, subito, secondo pezzo. Nero orgasmo. Nell'eiaculazione di un orgasmo disperato, germinato sui rifiuti dei consumo, siamo noi. Siamo quei pensieri e desideri soddisfatti che tu cerchi in vano di inghiottire, di dimenticare, ma d'orgoglio non vivi, ti tornano alla mente, inclinano i valori in cui credi da sempre. Gelido sudore di una notte senza sonno, con la coscia di domani sempre uguale siamo noi. Siamo quei momenti di fretta e lucidità in cui da amici ne sei schiavo e non riesci a sopportare più una vita sprecata, una recita banale, ma il tuo sforzo non ti riesce per volare. Istinti di rivolta per un'azione personale, le voci che ti gridano di vivere siamo noi. Siamo il tutto marcio della decadenza urbana che ha trovato il proprio senso in un'altra verità, e non ti ci crede a tentarci come suonare il nostro genere. Nettuno e Belluno al mixer, e qui saltano i tastini del mixer. Allora, Nero Orgasmo da Torino, se non sbaglio, gruppo anni 80, che nel 80, primo e unico album, immagino, che sappia io, insomma, c'hanno una raccolta dei 40 pezzi che... 40 pezzi in un album? E sono sempre i soliti 12, cioè, prima rimasterizzati, poi... e poi qualcosa dal vivo, insomma. Bello, anni 80. Carino, anni 80, sì sì, epoca Vrece, Negazione, ah, e compagnia, tanta roba, brutto, bello pulito il suono di Chi La Incontra. Bello, infatti, e non era il remastered questo, comunque era... è l'originale. Penso inciso... che sia l'originale, sì sì sì sì. Inciso pulito. Inciso pulitino. Andiamo avanti con la scaletta. O ti prude. No, c'hai qualcosa sulla lingua. Se ti vedo che c'è qualcosa. Allora, questo disco qui che ho scoperto da poco, io di loro ho sempre conosciuto solo un pezzo, che è un pezzo storico e canonico. E invece poi ho scoperto tutto l'album in questi giorni qua, in mezzo ai boschi. E praticamente tutto l'album, secondo me, è un piccolo grande capolavoro, più grande che piccolo. E siamo negli anni 2000 e qualcosa. Siamo... sì, sì, sì, 2006, 2007, una roba del genere. Sì, sì, sì, anche qualcosina prima. Anche forse, prima addirittura, sì. Vedi? Anche prima, allora. Però allora, più o meno siamo quegli anni. Si respirava un'altra aria, non so, prima di Genova siamo. No, non penso. Siamo dopo Genova. Nonostante Genova, temporalmente. Che faccio? Andiamo col pezzo? Sì, perché sennò sembra un quiz. Prela class. Carinista. La Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la Lero, la L

croce. Sono stato in prigione fino all'altro giorno. Sto fuori uno o due mesi, poi tanto ci ritorno. Vorremmo studiare, giocare a pallone, finire la scuola e comprare un furgone. Forse se nascevo in un posto migliore, adesso ero un genio, un avvocato, un inventore. Non odio nessuno, non odio la gente, ma al posto mio che tu saresti stato un delinquente. Mio padre è un astolto, mia madre era criminale, mio nonno un baglianto, poi le pare visionare. Con la famiglia così, adesso vado fai presto, è quello che sono. Ma non per questo mi piace tutto quello che faccio, vive tra la peggia di sottoni, il punto e lo spaccio. Conosco molte mele, più marce di me, più figli di troie, più bastardi perché c'è chi non ha avuto nessuna possibilità, c'è chi ha avuto tutto ma fa il figlio di puttana. Sono i palazzi più alti, sono le assegnanze brutti, sorridono in TV, ma poi ci fanno a tutti. Avere tutto e voler anche rubare, son povero e son brutto ma non posso sopportare. Dentro al mirino del mio nuovo fucile, non più negozi e banche ma la gente, forza! Segur. Per tutto un reperot. Allora, prima abbiamo mandato Gente di Borgata con Operaio e questi erano la Paolino Paperino Band con La Mela, giusto per fare un po' di storia. I Paolino Paperino Band. I, scusi. E per continuare a fare storia, saremo alla terza puntata del signorino ospite dell'ambasciata di sto cazzo in Inghilterra, quello che da 15 anni vive in un'ambasciata perché sennò gli americani gli danno 157 anni di gabbio. 157. Vabbè, questo è il famoso signore di Wiki. È la Wiki. Nuova aspettativa di vita, no? 157 anni? Non è male, 157 anni di vita e quindi se uno non se li fa il gabbio. Allora, qui riporta, questi sono dati, non mi invento niente, questa roba scritta dagli americani. E l'ambasciatore Mel Sembler spiegava: aeroporti italiani, porti e infrastrutture dei trasporti sono stati messi a nostra disposizione. Ma come c'erano riusciti, visto l'articolo 11 della Costituzione? L'ambasciatore lo raccontava convinto che tanti cavolo non sarebbero mai diventati pubblici se non 30 o 40 anni dopo, quando ormai quei fatti non interessavano quasi più a nessuno se non agli storici. Quel dispiegamento era stato il più grande spostamento di truppe da combattimento per via aerea dalla Seconda Guerra Mondiale. E il governo Berlusconi era stato la chiave. Se al potere ci fosse stata un'altra coalizione, in particolare una guidata dal centro-sinistra, il percorso sarebbe stato più accidentato. Poi la conclusione soddisfatta. Pur riconoscendo che l'Italia può apparire un posto arcano e bizantino, fino alla frustrazione, così ci chiamano gli americani, siamo convinti che è un posto eccellente per fare i nostri affari politici e militari. C'è il sole. Madonna, Madonna Lupa. Posso, c'è il sole, visto che c'è il sole ci facciamo sentire da qualcuno che c'è il sole. Gente che suonava come il porca Madonna, nonostante Genova. C'è un sole dentro. Ma eia.

and she is not talking. Be sure she wants some rocking. Black silk stocking, black silk stocking. If you're not into rocking, you're best to keep on walking. Black silk stocking, black silk stocking. You think she's going to leave you, but she's only one to see you in her black silk stocking, black silk stocking. Griezmann, siamo nella new wave, siamo anni 80, anni 80, fine sì, anni 80, sì. Sperimentazione sonora musicale 77 prime questo 77, loro sono una coppia di italiani poi sdoganati in tutto il pianeta Terra per la musica che facevano, che tutti pensavano fosse estera, no? Sì, invece sti che è. Black Silk Stocking dei Crisma. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse. Almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. Era uno dei dinosauri da distruggere. Sì, era per collegare i Crisma, che sostanzialmente erano fuggiti a Londra per, erano dei dinosauri della musica per creare questo gruppo qua, e poi sono ritornati in Italia. Pezzo della meglio gioventù questo qua. Ha fatto la storia della musica i Crisma. E mi sono intromesso qua perché il prossimo pezzo in realtà è legato agli eventi, al calendario eventi che ci sono. È uno degli eventi, perché ce ne sono un sacco in realtà di eventi, per diciamo la scelta del pezzo correlato. Scusate, hanno vinto loro. Ok, aspetta, ti interrompo un attimo perché io non so un cazzo, in montagna la scelta degli eventi, ma sono che non so un cazzo. C'è stato il G7 a Milano. C'è stato il G7 a Milano, un po' sotto traccia. C'è stato il G7, non so se l'hanno fatto in videochiamata, ma c'è stato il G7 a Milano. L'unica cosa, ho sentito la Critical Mass che diceva qualcosa, punto. E quindi io non so un cazzo, ma a quanto pare le cose passano. È stato molto, molto. Però c'è stato, è vero. C'è no? stato, sì, okay, sì. C'è stato. Noi diamo notizie, siamo una radio, siamo in diretta, la cosa è pubblica, la voce si sente, la musica anche. C'è stato il G7 a Milano, informiamo gli ascoltatori, io mi sono informato da poco. È passato un po' sotto. Comunque, ritornando agli eventi un po' meno cupi, meno un po' tristi, meno cupi, tra l'altro più pubblicizzati del G7 a quanto pare, visto che lo sappiamo. Mercoledì prossimo 24 a un pub Metallozzo che c'è qua a Milano in zona piazzale Calvairate, diciamo, si chiama Headbangers pub. Quella madonna. È free entry, quindi non si paga il biglietto. E loro sono i Trauma HC. Da non confondere con altri Trauma che sentiranno le vostre orecchie nelle prossime settimane. Esatto. Questa è Porta. Volume un po' alto, perché gridano un po'. Okay. Tappatevi un po' le orecchiette. Tappatevi un po' le orecchie. Da bombe. Scusa, puoi ripetere? Mi sa che non ho capito bene. No, dai, 50.000 mi servono. Vabbè, grazie della passeggiata, una bella giornata, io sono contento. Irina pure è contenta. E dici? Dove vai? Oh, Ari. Ma che devo fare? Vado alle banche? Che devo fare? Sei solo te che conosco quei soldi. Sì, io i soldi ce l'ho, ma non sono miei. Io sto sul mercato. Ricavo meno speso, quale guadagno? Che poi se tutti facessero come me, sto paese ci avrebbe un'economia diversa. Sì, che chissà gli altri come fanno, secondo te? È uguale, eh? La differenza è che te manco ci paghi le tasse, però. Ma senti questo, ma perché tu le paghi? Che c'entra io sto nell'edilizia, sono tutti in picci, non lo sai com'è. Però su quello che fatturo. Ma quando fatturi? Mai, che c'entra? Ho detto sono tutti in picci. Vabbè raga, era una roba un po' così, se fa per ridere. La nostra vita. Ok. Bellissimo. Vabbè, no, volevo ripetere Trauma Hardcore con Porta, non sappiamo di dove sono, confessiamo la nostra impreparazione tecnica. Non dovevamo dire, infatti. Non dovevamo dire. No, ma però è bello mettere l'accenno poi, quando riusciamo a dirlo, su come, perché. No, penso di Milano comunque, adesso mi informo in questo... Nessuno si accorge di niente, Fluxus. Anni 2000. Sembra qualcosa di più. sì, ma noi non ci siamo. A malapena esistiamo. Ci interpretiamo, ci guardiamo e moduliamo ogni riflesso. Che non è sempre lo stesso. Tecnico è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso. Che non è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso. Tecnico è sempre lo stesso. Attento, che non è sempre lo stesso. Mentre nessuno si accorge di niente. Mentre nessuno si accorge di niente. Furono in molti a capire che una macchina infernale si era messa in moto. Questo qui è un personaggio che io detesto, ve lo dico prima della lettura? Sì, sì, dicelo prima. Ve lo dico prima, così lo sa. Io l'ho visto in televisione e pensavo fosse una democristiana, lecchina di sto cazzo del regime. Si chiama Lucia Annunziata, una roba che Ah, ho capito chi è, ho capito. Mi è sempre venuto male a vederla e a sentirla. Sì. Cioè, il peggio del nazi cattolicismo. È un po', sì, è un po' un... Sembrava una Falcucci, una Thatcher, una roba brutta. Brutta mezz'ora quelle trasmissioni, sì, quella roba lì, quella roba sì, lì dove sì, faceva sì, la maestrina sì. Del peggio e brutto proprio democristiano, odioso, sì, sì, democristiano in democristiano col callo. Ma tu hai preso il libro? Ma io ho trovato in casa il libro, posso anche dire che non è mio ma chi se ne fotte, e in cui lei fa sto libro Lucia Annunziata, il titolo è 1977 in numeri. C'è anche un sottotitolo che è inutile leggere, ma comunque ha fatto sto libro dove c'è un'analisi del 77, l'anno storico, è la più lucida che ho mai trovato in vita mia e mi ha colpito. Ostriga. Sì, mi ha colpito per la lucidità proprio di come ha messo insieme tutti gli eventi, l'annata e tutte le composizioni. Io, appassionato di storia, ho sempre studiato. Lei è riuscita a fare un condensato. Poi è peggiorata col tempo. Non so, questa l'ha fatta nel 2007, mi sa che era già una chiavica, però boh, magari l'ha scritto prima, non so. Comunque, vi leggo una particella piccola, non, prego, prego, non prego. Un insieme di cose, particella piccola, e poi vi invito a leggerlo tutto, nonostante forse andate in biblioteca. Non furono in molti a capire, 1977, giusto per capire, è l'anno, quindi... L'anno. Non furono in molti a capire che una macchina infernale si era messa in moto nel nome di una coerenza rivoluzionaria sempre maggiore, attraverso espulsioni successive. Quella messa in moto dall'espulsione di Lama fu una sorta di rivoluzione culturale in cui finirono con l'essere puniti tutti, a cominciare dal partito amico-nemico, il PC, colpevole di connivenza con le istituzioni, per continuare con gli intellettuali di sinistra divenuti alleati della borghesia, i giornalisti servi dei padroni, i dirigenti dei gruppi politici considerati non del tutto rivoluzionari, fino a che restarono solo le armi. E sale la voglia di sapere conoscenza, mi assale come demoni che mordono hanno cervella, belva di pece, costargi le mie dita, sbatto ed apri il cranio in continuazione. Sturato le orecchiette tutti quanti dal 1993 da Ferrara con i Samsara, immessi in utero era il titolo del pezzo. Samsara da Ferrara, sì. E due cose, rigo due altri eventi, io ce li butto dentro ogni tanto, tra un pezzo e l'altro. Allora, cosa... Vabbè, giusto perché giochiamo in casa, visto che trasmettiamo da ZAM. Vadi. E venerdì 19, quindi tra due giorni, Rock da Camera. È un duo, però. Quindi c'è cioè, piano e viola, violoncello, violino. È una battuta o è tutto no, vero? No, è tutto vero. Io Stirpe e Tarantola sono i due. Shurp. Dopo i due violoncellisti, Raffaella, quelli croati, Stirpe, Minziga. Particolare, eh? Particolare. Va bene. Non vado a lavorare all'estero per venire a vedermi. E gli altri ve li dico dopo, dai, tra un pezzo e l'altro, perché ce ne sono un po', quindi. C'è anche il Festival delle Etichette Indipendenti al Barrios. Domenica 20. Questa Festival domenica, delle Etichette no, Indipendenti. Aspetta. Sì, domenica. Domenica questa Festival delle Etichette Indipendenti al Barrios. Al Barrios, quartiere Barona. E altre band, Siuxi and the Skunks, carini. E, boh, 10 euro, eh? 10 euro, te lo dico. Ah, minchia, 10 più 8. 10 euro, ci sono, però ci sono 7-8 band, 7-8 band dalle 2. Un euro fino... a piotta è una birra in regalo per loro. C'è anche il piotta, però vi diciamo dopo dov'è. Tanto lui è dalla Val d'Aosta. Francesco C. dalla Val d'Aosta. Sì, grandissimo. Album, insomma, il primo. We'll be right back.

Sesta puntata e pillola rossa. Però vabbè, non riniziamo dall'inizio. Belluno e Nettuno. Dico un altro appuntamento tra un pezzo e l'altro. E sabato Conchetta Benefit inguaiati con la legge. Quella. E quindi la solita rassegna, raccolta fondi. Con tre gruppi, insomma, sul punk hardcore, Scrimo, insomma, Overcharge da Varese, dalla Francia Gene addirittura, e gli Skuld, che effettivamente volevo farvi sentire, ma non... magari la prossima volta, perché... Quindi ripeghiamo sul brigidino degli Appaloosa. Sì, ripariamo su Brigidino. E c'è anche il Piotta, poi chi vuole andarsi a vedere, però. Quello è un altro discorso. Sì, è il Magnolia. So che è il Magnolia. Quello è un altro discorso. L'abbiamo messo l'altra volta il Piotta. Poi c'è una discussione in studio al riguardo. E... non lo so. Sì, sicuramente cosa facciamo? Vabbè, lo rimandiamo un'altra volta. Chi vuole. C'è un Piotta prima, un Piotta dopo, un Piotta durante. Ma tanto pian piano stanno salendo gli Appaloosa. Comunque il Piotta l'aveva messo in una di queste puntate, quindi per questo motivo l'abbiamo rimesso. Ma può essere una buona scusa per rivisitare cose nuove e moderne. Chi lo sa. Che io in fabbrica mi annoio, mi rompi i coglioni. Allora lavorano, lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto, la vita, traguardo, striscione, tutti dentro in pista, qui dentro si ha tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i Teroni, come questo qui, Sicilia Orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanchi e io li frego sul rimo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, Io ho una tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo, il culo di quella lì, qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Senza tante storie. Capito? Lavora, senza tante storie. Sì. Sì, ho capito, ma voi? Voi quanti anni ci avete? 31. Sono in fabbrica da 15 anni, ho fatto 2 intossicazioni da vernice, c'ho uno squarcio qui dentro, ho fatto l'ucera. E proprio a maggior riguardo di tutte queste cose poco dopo c'erano i Decibel che invece introducevano qual era la risposta del mondo di allora, era un po' più terra terra, ma questo Cottimo si rispondeva in un'altra maniera, a mano armata. Dentro ai negozi in centro c'è tutto quello che non ho. Oh, che voglia di entrare dentro e prendere di tutto un po'. Avere le cose migliori è un privilegio che è sempre più raro. È brutto guardarle da fuori, ma per averle ci vuole denaro. Non ci sei riuscito mai ad avere ciò che vuoi. Hai imparato a far da solo. Prendi tutto e spicca al volo. Hai caricato il revolver più bello ed entri nel posto più chic. L'hai visto fare anche da Duratello, Arsenio Lupin, Diabolik, come gli eroi dei tuoi cartoni. In un minuto ti sei rapinato montagne dei soldi più buoni, dollari di cioccolato. T'arriva una sberla sul muso, la grossa mano del droghiere fa male. Scappi via ma ti senti confuso, quello che hai fatto ti sembra normale. Così la realtà ti ha tradito, a Diabolik non sarebbe successo. Walt Disney comunque è finito, adesso il traguardo è il possesso. A sei anni tu già sai ciò che vuoi e non avrai. Vedi attorno tante scale, stare in basso ti fa male. A sei anni tu già sai ciò che vuoi e non avrai. Vedi attorno tante scale, stare in basso ti fa male. Era il 1979. Ruggeri. Decibel. Erano i Decibel. Erano i Decibel con Ruggeri. È tornato, te lo dico così come notizia, è tornato il pane alla scuola. È tornato il pane perché, a scuola. Perché sai, noi riprendiamo sempre le vecchie notizie, capito? Attualità, che rimaniamo sul pezzo. Cioè, ci intrufogliamo a vedere se è cambiato qualcosa, no? Cioè, è chiaro che sì. E quindi in questo ambito è tornato il produttore, cioè ne hai scelto un altro, C'era un programma su Controradio che era Ben Scavato Vecchia Talpa. Ecco, mi sembra un titolo appropriato a queste ricerche. E nelle ricerche, appunto, per scovare chi è il nuovo produttore, perché poi uno c'è lì e ha curiosità, no? E, vabbè, ricordiamo che mettevano i chiodi nella farina delle messe scolastiche. Vetri, plastica, comunque, vabbè. Non alla fine era vetro, però vabbè. Perbacco, chiedovegna. E scoprendo la lista dei fornitori, insomma, ci sono del tanto millantato chilometro zero. In realtà non lo è così tanto. Non c'è lo nel zero. Senso che, guarda, io vado in ordine alfabetico perché c'è proprio un foglio Excel ordine alfabetico. Come c'è l'aglio. Sì. E l'aglio non è italiano. L'aglio non è italiano, quindi allo zero ci mettiamo. Quanti zeri ci mettiamo per arrivare a questo aglio? Visto che non è uno solo zero, quanti zeri ci sono? Non lo so, c'è scritto Comunità Europea, quindi Comunità Europea. Cioè, avrebbe Comunità Europea sarebbe dal Portogallo al. Immaginiamo il bacino del Mediterraneo, perché l'aglio dove cresce? Il Mediterraneo. Svezia, non penso che in Svezia cresca l'aglio. No, a Svezia c'è il merluzzo. Ah, il merluzzo, sempre per i chilometri. Zero, sì, e quindi sì, sì. Zero siamo qualche migliaio di chilometri nell'ordine 800 con le albicocche sempre da un'altra parte, anche lei con due zeri o tre, e anche le olive nere, che mi spiace un po', però le olive nere in Sicilia, in Puglia c'è una gran produzione di olive nere, e anche le angurie. Sì, difatti che l'Italia non ha mai prodotto angurie in vita sua, no, non ho mai sentito, tu dici, né le olive né le angurie, l'Italia non ha mai avuto certi tipi di culture, interessante. E non lo so, perché io ero focalizzato sull'aglio, perché ho detto, l'aglio, cioè, non è che deve rifornire, cioè non è che devi servire questi gran piatti d'aglio a tutti, no, lo usi come ingrediente, quindi una spezia. Ora, visto che giochiamo qua nel nord Italia, appena sotto Milano ne producono un sacco. Piacentino è una delle zone rinomate, produzione di tonnellate d'aglio, tonnellate d'aglio, infatti. Piacentino è a 70 km da Milano. È il antivampirismo. Sì, diciamo che lì c'è uno zero solo, il chilometro zero, c'è un solo zero prima di arrivare all'aglio. Esatto, quindi adesso non sto a leggere tutto, era giusto per fare un appunto. Sì, comunque è sempre Milano Ristorazione, c'è sti cazzo di Giarrusi bastardi infamoni che da 20 anni hanno il monopolio in questa città, giusto per dire, pane al pane, vino al vino, pane col vetro al pane col vetro. Vabbè, gli daremo il vino con sì, fa notare il caro nessuno che il foglio, se vuoi consultare, stampartelo come ho fatto io, in realtà è scritto in carattere, cioè sono quelli che ci sono nei contratti con le banche. Sì, questo no? È un contratto internazionale, mi sembra, cioè, è scritto a livello di zero piccolo. Micron, potessimo farvelo vedere, ci manca che sia in cinese, in effetti è in italiano, ma è sull'ordine dei micron ogni scritta. Sì, sono tre fogli e un sacco di micron. Potrebbe leggerli un'ape regina, una formica, non lo so, qualcuno di quelle dimensioni lì. Vabbè, visto che siamo a scuola, cartoni animati. Va bene, restituiamo. E qualcosa riguardo. Restituiamo a Milano Ristorazione il vetro che si dovrà riprendere indietro. Ce lo facciamo dire a RoboFlow, che sembra che abbia fatto un grande disco. Featuring Esa Blinken, Pregos. No, boy. Yeah. E RoboFlow. RoboFlow. Esa. El Prez. Yeah. DJ boy. Giuda, you got flame. No, wow. Call on, baby. Non puoi portarmela via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti sisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Non puoi portarmela via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti sisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Ma dove sono? Indogana! Vuoi guardarmi in culo? Se allora verbalizza, altrimenti legalizza pizza con cartine rizla. Anzi, ciao sti cazzi, alzi tac e torni su Island. Carnago merite, giusto al tempo di una pippa. Autostop, Babbo Natale con la slitta. Gli irrigo la portiera, ma lui sbronza se la ghigna. Renne Folletti gli preparano la mista. Mi passo la mia smoky, ma lui chiude con la Bibbia. Ma stropiccio gli occhi, un po' mi passa. Mi sveglio in tanga in piazza come all'isola di Pasqua. Vedo teste enormi che mi parlano e non basta. Vedo mia mamma che si incazza con i rasta che mi critica e non sa né come né quanto siamo fatti. Fatti fatti tuoi, non farti fatti di noi altri. Messaggi di fumo oltre la dogana. Legalize marijuana. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Vai oltre a quanto che ti dà allegria. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Il fatto che ti dà allegria. Sembra personal ma non è. Serve a darti l'allegria. Meno lo passi più respiri. Ti dà subito l'allegria. Gli dentiti in terra non è una leggenda. L'Olimpo è come un bel dipinto. Però non trovano l'erba nei libri mentono. I tipici stanno dentro di brutto. C'è Eolo in giro un tiro e se lo fuma tutto. Madre Deus, Zeus non cucini da Dio. Prima che vomito vado a farmi un joint con Dioniso. Anche i filosofi c'è chi non vuole e chi non resiste. Platone buttava il cannone ad Antistene con Ulisse. Nessuno ci sta più assieme. Ti butta il fumo a mare appena sente le sirene. Crea scintille tra Penelope e Achille. Han litigato per colpa dell'ultimo tiro killer. Non c'è pollo? Passami una smoking che rollo. Smolla il porro, Zorro. Cos'è che hai mangiato? Il pollo? Mi accollo a questa giolla coi robot flow e pollon. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Chiamami Don come Peggio. Se ti infiacchisci con putri di show, punta al beauty tree shop. Garantisco sweet stock a price low. Nice bong da shop. One shot e dopo mi accascio. Un flow fuorissimo nel corpo che mi fluttua. Fuori esce sotto forma di fotta. Se non son fatto come un toffa, altrimenti si fotte. Resto in botta. Obla. Rollo un'altra jolla, infili in bocca. Chi tocca? Lo spinal più vicino è norma. Ma se ogni giro va di conda, lasciagli la fonda e chi sbocca? Il primo che ne fuma troppo mixa vino e vodka. Il cesso diventa l'unica rotta. Ascolta. Non prendertela storta se ogni volta al mattino post festino c'è in giardino un'altra torta. Chi scrocca? Frotta masci con te orfo. Chi compra? King J demo con la cassa moffo. Ma che importa? Quello che importa è star con chi conta. Avere ganja che abbonda. Vedere il cash che ritorna. E hey, io, bella Esa com'è? Come una bomba. Ci si incontra sull'Olimpo per la prossima raccolta. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Non puoi portarmela via, via. Non muori mica per un joint di Maria. Forse ti scisci un po' forte. Vai oltre al fatto che ti dà allegria. Sulla cima dell'Olimpo ci sono tante varietà. Non con light super skunk le migliori qualità. Sotto a forma di piantina che regala un cornolè. Cosa appiccicosa, cara forza non è. Allora, collegato a questo testo, diciamo, per il weekend, festa della Semina a Leoncavallo. Questo weekend? Questo weekend, 20 e 21, Hensing con Nerone in concerto. Proprio quello di cui si stava parlando, chi? Nerone? Nerone. Boh. Va bene, allora. Non so, non sono preparato su questa musica. Non sono preparato. Io do le notizie dei. Allora, dei su Nerone. Sono non pagato per questo. Su Nerone non ci siamo e quindi rispondiamo con Cane. Con Cane, qua siamo. Sì, sì, trentina d'anni fa. Trentina d'anni fa ci sta, live a Montreux, forse non era ancora bruciato tutto, quindi sì, 30 anni fa può essere. Potrebbe essere, questo è il famoso nome noto che ogni tanto mettiamo, questa puntata ce n'è più di uno. Rivisitazione del pezzo della seconda parte di carriera di questo gruppo di Firenze. Sorpresa, con uno stacchettino in silenzio. Sentiamo. pezzo vecchio chiave un po' più rock. Rivisited. Non diciamo chi sono perché tanto già ci lo sono sapete, stati pezzi lo sapete. Nostri. Qui sono veramente ignoranti. Perché? E le pere le mettono sugli alberi. E dove dovrebbero metterle? Io l'ho sempre viste nelle cassette. Ma originariamente nelle cassette. Cioè nascono nelle cassette. Poi una volta mature le mettono sugli alberi. Ah. E l'ortolano? Sta bene, grazie. Quell'uomo con il suo perdono, donna impura, però in cambio voglio che tuo primo figlio venga a stare con me, che suo figlio immola per non stare sola, non è degna di un re. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi luna d'argento, come lo cullerai se le braccia non hai. Figlio della luna, nata primavera, un bambino da quel padre scuro come il fumo, con la pelle chiara, gli occhi di laguna, come un figlio di luna. Questo è un tradimento, lui non è mio figlio, no, non lo voglio. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è. Dimmi luna d'argento, come lo curerai se le braccia non hai. Proprio al centro dell'onore, la ferro gridando, la bacio piangendo, poi la lama a fondo. Corse sopra il monte, col bambino in braccio, e gli lo abbandonò. Luna adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non. Dimmi luna d'argento, come lo cullerai se le braccia non hai. Figlio della luna, se la luna piena poi ti viene, ma se sta piangendo, lei se lo trastulla, cala e poi si fa culla. Ricordiamo a tutti che il nostro paese spedisce armi in situazioni di guerra che uccidono uomini, donne, cani, bambini, animali. L'Italia guerra che si allarga a quanto pare. Non so, comunque vengono spedite armi in Israele, vengono spedite armi in Ucraina e roba che poi serve per occupare il prossimo, non è una cosa bella. Detto questo, c'avevo un appuntamento? Sì, c'è l'ultimo, diciamo, perché ne abbiamo dati un sacco, quindi la Volpe l'Uva al Boccaccio senza casa, però troveranno sicuramente dove farlo nel weekend di sabato e domenica a Monza, dopo i plurisgomberi dell'ultimo periodo, dopo la grande street parade, l'uragano che c'è stato con grande partecipazione, sono stati invitati. C'è stata una street parade? A Monza contro ovviamente la gestione della città, della cementificazione. Sì, ho saputo che tra lì e Busto vogliono continuare a distruggere gli ultimi parchi. Si continua. Dove vedono verde gli piace buttare del cemento, non sembra piace correlato. Il verde. Non gli piace il verde. Ricordiamo a tutti che il cemento produce CO2. E noi cambiare macchine per questo. questa è una dolce richiesta che una più volte è stata avanzata da un utente. Alla fine è stato un caso, è una coincidenza fortuita, ma dato che le coincidenze non esistono, e il pezzo è arrivato lo stesso. È arrivato Umberto. Il titolo viene da sé. vabbè, salutone a tutti quanti. Saluto a tutti quanti, non sappiamo esattamente quando, perché mercoledì prossimo non so se saremo in onda, non so, sicuramente non il primo maggio, vediamo se riusciamo, se riusciamo a fare qualcosa per il 24, una mini puntata magari che lasciamo capiamo, in gestione. Ultimo pezzo che improvvisato adesso. Sì, perché è saltata la scaletta, ma queste vabbè, sono cose, mi ha detto di non dire sempre sta parola qua, quindi non la dico più. Esatto. Tra l'altro suonano anche loro. Ah, ecco, diciamolo. Nonostante abbiano l'età del cucù, però magari anche loro tra due giorni, però suonano a Brescia in teatro. Vabbè, i brescesi potrebbero, se hanno voglia, e poi se gli danno il biglietto con l'accredito, non so. Gruppo storico. Va bene, allora togliamo questo per mettere quell'altro e andiamo col gruppo storico che sta arrivando. Sì, è la premiata Forneria Marconi con... È festa. È festa. Ciao ragazzi. Alla prossima. Per costruire la puntata di settimana prossima, anche a distanza. Salutare Lorenz che ha deciso di andarsene a cambiare dimensione due giorni fa. Ciao Lorenz, buona suonata. Ma per davvero. magari se recuperiamo un pezzo lo mandiamo avanti. Sì, avevo pensato, c'ho un suo CD e vabbè, non ho fatto in tempo a portarlo, a scaricarlo, e... ma vi faremo sentire Lorenz quando aveva deciso di stare su questo pianeta e come suonava. Grande tastierista, grande polistrumentista, molto compositore. Ciao Lorenz.